Incontri di Gianfranco Fabi. She says, con questo brano degli Arts che sta proprio dicendo Never Give Up, It's Such a Wonderful Life, iniziamo il nostro incontro di oggi. Buon pomeriggio, buona domenica, quanti ci ascoltano, buona domenica a Tommaso Bainini che è qui con noi. Buona domenica a tutti. Tommaso Bainini, direttore generale di Michael Page, come mai ha scelto questo brano degli Arts? Per il sound giovane e fresco, ma soprattutto per il messaggio positivo che dà questo brano, dove ricorda di non mollare, di cercare di rialzarsi, soprattutto legato in un contesto della crisi internazionale dove non siamo ancora usciti completamente. Penso che il messaggio di essere positivi, di guardare avanti, di cercare di superare le difficoltà sia particolarmente attuale. Non lasciatevi andare, la vita è una cosa meravigliosa, possiamo dire. Allora, direttore generale di Michael Page, che cos'è Michael Page? Allora, Michael Page è una multinazionale che si occupa di ricerca e selezione di personale di middle e top management. Si occupa a livello mondiale, quindi siamo presenti in tutti i continenti, ed è nel contesto europeo e nel contesto italiano leader di mercato. Che cosa fa Michael Page esattamente? Mette in contatto i candidati e le aziende per identificare per quanto concerne appunto i candidati delle opportunità di business, delle opportunità di delle opportunità di lavoro. Tenta di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Corretto. Ecco, ma in un certo senso siete dei cacciatori di teste. Siamo dei cacciatori di teste, corretto. Anche se non siamo solo quello, perché i cacciatori di teste si occupano esclusivamente di cacciare la testa direttamente all'interno dell'azienda, noi utilizziamo anche degli strumenti diversi che possono essere gli annunci che pubblichiamo sul web, sulla carta stampata, oppure utilizzando il nostro database, il nostro network, che è molto importante. Ecco, lei è molto giovane, 36 anni se posso dire, esatto. L'età. Come si diventa direttori generali di una multinazionale? Ma devo dire, anzitutto, per quanto concerne Michael Page, essendo una società estremamente meritocratica, lo si diventa raggiungendo i risultati. Questo è il primo punto. Ci sono diverse caratteristiche che permettono alle persone di avere successo all'interno di aziende multinazionali come Michael Page. Penso che prima di tutto sia la voglia di aggiornarsi e di mettersi sempre in discussione, la forte motivazione e la voglia di emergere, e poi la capacità di adattarsi a contesti multinazionali che sono sempre in rapida evoluzione. L'azienda, io sono entrato in azienda circa 12 anni fa, ed era completamente diversa nel modo di ragionare e nel modo di affrontare il mercato del lavoro. E ad oggi probabilmente, se ricopro questo ruolo, è perché mi sono cambiato, mi sono adattato a quello che è il contesto di questa multinazionale, e sicuramente ho cercato di dare quelli che sono i miei contributi. Ecco, ma all'inizio è stato lei a cercare Michael Page o è stata Michael Page a cercare lei? Ma guardi, è stato quasi fortuito, nel senso che io sono stato a fare un colloquio per Michael Page non pensando di dover entrare all'interno di Michael Page, perché i Michael Page sono tutti ex operativi del settore. Quindi si va a fare un colloquio, ad esempio un auditor va a fare un colloquio per una posizione nell'ambito finance, e poi magari, se è una persona che ha caratteristiche in linea con quello che si ricerca all'interno di Michael Page, l'azienda chiede al candidato se è interessato a cambiare la propria attività, il proprio lavoro, ed entrare a fare consulente all'interno di Michael Page. Quindi consulente, che cosa vuol dire? Consulente delle aziende che chiedono a Michael Page certe posizioni professionali? Allora, il consulente ha un duplice ruolo, anzi. Il primo è un ruolo di sviluppo commerciale, cioè deve comunque identificare delle nuove opportunità di business. Ad oggi penso che in tutte le aziende sia importante avere delle persone che abbiano un'anima commerciale. Una volta identificato le opportunità di business, deve gestire queste opportunità, quindi opportunità di business intendo delle ricerche, delle posizioni aperte all'interno delle aziende e clienti, e poi deve gestirle trovando le persone giuste, trovando i candidati migliori da presentare ai nostri clienti. Ho capito. Ecco, quindi in questa prospettiva lei è arrivato a Michael Page, e però non aveva l'idea di fare questo lavoro quando ha iniziato. Assolutamente no, come quasi tutti i colleghi che sono all'interno della mia azienda, perché quasi nessuno arriva da società concorrenti, ma arrivano tutti dalla funzione nella quale oggi reclutano. Ecco, lei ha fatto l'università di Castellanza. Sì. Che cosa avrebbe voluto fare iscrivendosi quando ha iniziato a fare questa università molto appunto finalizzata al settore economico, al settore produttivo, al settore industriale? Ma inizialmente avrei voluto fare l'imprenditore, essendo un'università legata comunque a un ramo aziendale, legata soprattutto a un tessuto anche economico della piccola e media impresa, avrei pensato di fare l'imprenditore. Poi mi sono trovato all'interno di Michael Page, i risultati sono arrivati e ho continuato a percorrere questa strada. Quindi non ha una nostalgia del fatto di poter fare altre cose, il lavoro la diverte? Per il momento mi diverte molto questo lavoro e penso che sia la cosa più importante, fare un lavoro che piace, perché come dice Confucio, scegli un lavoro che ti piace e non lavorerai mai nella tua vita. Ecco, quindi il lavoro come anche come passione, come si fa a far capire ai giovani che si può essere creativi nel lavoro, che si può trovare nuove opportunità, che bisogna sfruttare le opportunità? Che cosa dice un giovane che chiede di entrare in professioni facendo carriera, ovviamente? Ma quello che chiedo è chiedo alle persone di, appunto, come dice lei, di metterci passione e motivazione, perché queste sono alla base del successo di ogni singolo candidato. È quello che cerchiamo nelle persone nelle quali andiamo a selezionare, sia all'interno dell'azienda sia per i nostri clienti. Non bastano più le competenze tecniche. Oggi è necessario avere una passione, una forte motivazione per quello che si fa, soprattutto per superare i momenti difficili. Ecco, com'è strutturata Michael Page a livello multinazionale? Allora, siamo strutturati anzitutto per funzione aziendale, nel senso che noi abbiamo una serie di divisioni, che sono la divisione finance e banking, che si occupa di ricercare profili in ambito finanziario e bancario, la divisione sales e marketing per profili commerciali e marketing, la divisione ingegneri tecnici per figure tecniche. Abbiamo poi in totale 12 divisioni, non sto a elencargliele tutte, non vorrei diventare noioso, però la struttura è organizzata in questo modo. A livello internazionale è organizzata con una casa madre inglese basata a Londra, che è nata nel 76 e successivamente ha avuto uno sviluppo internazionale mediante con l'apertura di Michael Page Francia dopo circa 10 anni, e da lì sono state create tutte le altre country. Ad oggi siamo presenti in 31 country. Ecco, l'Italia ha qualche particolarità rispetto agli altri paesi? Ma sicuramente l'Italia è più vicina ai mercati chiaramente europei, sud-europei, con caratteristiche leggermente differenti, nel senso che il nostro mercato del lavoro è leggermente meno flessibile di altri e di conseguenza anche per una società come Michael Page, che si basa sul numero di persone che cambiano lavoro, effettivamente è un po' più difficile raggiungere i risultati rispetto magari ai colleghi, dove ad esempio parlo del mercato inglese, che è un mercato dove i cambi di lavoro sono decisamente più frequenti. Questa è la caratteristica principale. Ecco, ma come mai questa mancanza di mobilità è stata esaminata molto spesso? Secondo lei, poi ne parleremo nella seconda parte, dipende più da un atteggiamento, diciamo, personale o più dalle regole che governano il mercato del lavoro? Ma forse le regole hanno influenzato anche l'atteggiamento poi personale, sono entrambe le cose, i candidati sono magari meno disponibili a mettersi in discussione rispetto magari a candidati che operano su altri mercati, anche se voglio sottolineare una cosa, negli ultimi anni abbiamo visto un cambiamento importante da parte dei candidati. E abbiamo visto persone molto più orientate alla voglia di cambiare, rimettersi in discussione, valutare nuove opportunità per crescere, per ricollocarsi o per trovare nuove strade. Ecco, vedremo magari nella seconda parte appunto di approfondire questo tema del mercato del lavoro, delle possibilità per giovani ma anche per i meno giovani di entrare in azienda e di fare carriera. Intanto ringraziamo Tommaso Mainini, direttore generale di Michael Page. Incontri. Never give up, it's such a wonderful life. Non lasciatevi scoraggiare, non mollate mai, la vita è meravigliosa. Con questo brano degli Yards scelto da Tommaso Mainini riprendiamo il nostro incontro di oggi. Tommaso Mainini, direttore generale di Michael Page, abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, di come è arrivato in questa grande azienda multinazionale, un'azienda che si occupa di incrociare la domanda e l'offerta del lavoro, e stavamo parlando appunto del mercato del lavoro italiano, un mercato del lavoro italiano che è forse meno flessibile, meno mobile di altri mercati del lavoro, e appunto abbiamo chiuso la prima parte su questa riflessione, se si tratta più di un elemento di personale, di personalità, di atteggiamento delle persone o più di regole, forse tutti e due, dicevamo. Tommaso Mainini, cosa si può fare allora per rendere più flessibile questo mercato del lavoro? Ma sono, come dicevamo, sono entrambi gli aspetti, quindi sia da parte delle persone che magari sono meno orientate al cambiamento, e su questo aspetto devo dire che abbiamo già notato negli ultimi anni un atteggiamento differente, un atteggiamento più portato alla voglia di cambiare e alla voglia di mettersi in discussione. Per quanto riguarda le regole del mercato, penso che forse delle regole un po' leggermente più flessibili rispetto a queste potrebbero aiutare. È chiaro che la flessibilità non vuol dire creare delle situazioni di precariato, quindi bisogna fare molta attenzione quando si interviene su questi temi, certo. Quindi è estremamente delicato, quindi purtroppo non c'è una ricetta che ci permette di trovare una soluzione che sia vincente per entrambe le, sia per il mercato del lavoro, per i candidati e anche per chi magari ha delle difficoltà in una fase di uscita dal mercato del lavoro. Ecco, l'Italia ha un tasso di disoccupazione che è un filo più basso di quello degli altri paesi europei, però è comunque un tasso di disoccupazione certamente che andrebbe ridotto e che colpisce soprattutto però i giovani. Ecco, come mai un giovane ha difficoltà a trovare lavoro, a entrare nel mercato del lavoro? Dipende dalle imprese che in questa fase sono in difficoltà, dipende dalla preparazione che forse non è adatta agli impieghi che vengono chiesti attualmente dalle imprese? Ma allora, devo dire, dall'osservatorio che ha Michael Page, quindi parliamo di persone che hanno comunque normalmente hanno un titolo di studio elevato e hanno già qualche anno di esperienza, almeno 2 o 3 anni di esperienza, quello che abbiamo visto è che non c'è una situazione così di forte crisi per quanto concerne le opportunità di lavoro. A livello generale, quello che mi sento di dirle è che forse la nostra università sicuramente prepara molto bene da alcuni punti di vista, forse è un po' ancora distante da quello che poi sarà l'entrata nel mondo del lavoro, quindi c'è ancora un piccolo gap da colmare. Ecco, in questa prospettiva 2 domande direi: quali sono le posizioni per cui avete più offerte che domande, e quali invece quelli per cui avete più domande che offerte, cioè dove c'è più offerta di professionalità, di tipi di lavoro, e dove si riscontra meno risposta da parte dell'azienda e viceversa? Certo. Allora, dove abbiamo più richiesta è l'ambito marketing. Penso che moltissimi giovani vogliano ricoprire posizioni in ambito marketing, perché sicuramente è un mercato dinamico, interessante, ma purtroppo il numero di posizioni all'interno di marketing e comunicazione sono elevate, ma l'offerta di candidati è superiore. E in un momento di crisi, dove si fa attenzione magari ai costi, e spesso si vanno a tagliare magari anche i costi legati alla comunicazione, sono le posizioni dove l'offerta è superiore alla domanda, non sempre, ma in un periodo di crisi. Quello che invece è in controtendenza, che è sempre, diciamo, quella funzione che è sempre in ricerca di nuove candidature, di nuove professionalità, è la funzione dell'export manager. Quindi parliamo delle aziende italiane. L'export manager è colui che va a proporre i prodotti su mercati internazionali. Perché? Perché chiaramente ad oggi il mercato italiano è un mercato che è sicuramente più maturo rispetto ad altri mercati, rispetto a quelli emergenti in particolare, dove magari i margini sono inferiori e dove un'azienda italiana che vuole essere competitiva cerca di posizionarsi su nuove aree che possono essere, ripeto, sia mercati emergenti ma anche mercati che sono molto vicini a noi come quelli europei o mercati americani. Quindi un export manager con solidi studi e con 3 anni di esperienza trova lavoro da un giorno all'altro? Da un giorno all'altro dipende da che tipo di esperienza, da che settore, in quale settore opera, però avrà molta più facilità a trovare una buona opportunità rispetto ad altre candidature. E poi è una posizione che fa girare il mondo. Esatto, è una posizione che anzitutto bisogna avere delle buone conoscenze linguistiche, ma è una posizione che permette di girare il mondo, di incontrare persone differenti, quindi anche i clienti che la persona incontra hanno culture differenti, e questo devo dire che è molto stimolante. È chiaro che però bisogna tenere in considerazione che si passa magari 1 o 2 settimane al mese fuori casa. Ecco, cosa consiglierebbe un giovane che deve iscriversi all'università o che fa i primi anni di università per avere un profilo di studi capace di inserirsi nel mondo del lavoro in maniera dinamica? Ma consiglierei di scegliere una facoltà, sicuramente ci sono delle ottime facoltà in Italia, una facoltà che permetta poi di accedere al mondo del lavoro sapendo delle facoltà che sono possono essere facoltà di ingegneria, facoltà di economia e commercio, che sicuramente permettono di avere una serie di sbocchi più elevati magari rispetto a delle facoltà molto più di nicchia. E soprattutto consiglio di magari investire 6 mesi con un progetto Erasmus o anche più e andare a studiare all'estero, in modo da avere non solo una preparazione linguistica migliore, ma da avere anche una cultura un po' più aperta rispetto a una persona che ha studiato in Italia. Certo, diamo per scontato che l'inglese è essenziale. Meglio l'arabo o meglio il cinese? Ma in questo momento devo dire, forse il cinese è la lingua che permette di fare più business, non so ancora per quanto, forse tra un po' l'indiano e perché no il portoghese con il brasiliano, che è uno dei mercati uno dei mercati emergenti che non è ancora esploso quanto la Cina. Certo, forse l'arabo con tutti i profughi che stanno arrivando, purtroppo avremo molti interpreti capaci di tradurre, perché impareranno loro l'italiano e ci insegneranno l'arabo, i cinesi sono un po' più lontani, ecco, esatto. Ma detto questo che può essere... Abbiamo anche tanti cinesi in Italia. Comunque. Abbiamo anche tanti cinesi in Italia, ecco, detto questo però, quali sono invece i settori proprio a livello così industriale che vede per l'Italia con maggiori prospettive di crescita, con maggiori prospettive anche che hanno maggiore dinamica nell'offerta di posti di lavoro? Allora, i settori che in questa fase stanno crescendo di più sono settori, allora bisogna fare un distinguo, bisogna dire settori che stanno crescendo dopo la crisi o settori che stanno crescendo in generale, perché chi sta crescendo dopo la crisi significa che ha sofferto tantissimo. Prendo il caso dell'automotive, che è stato insomma un settore che è stato colpito particolarmente, e nell'ultimo periodo abbiamo visto una leggera ripresa in questo ambito, quindi auspichiamo che questo settore possa crescere e possa ritornare a livelli più vicini alla pre-crisi del 2008 rispetto a quelli attuali. Ci sono poi settori che sono settori del mondo dei servizi in generale, dell'information technology, dei servizi a valore aggiunto legato a prodotti sul mobile, comunque alle nuove tecnologie, e questi sono in costante crescita e probabilmente lo saranno anche nei prossimi anni. Ecco, quindi settori sempre avanzati, settori che guardano al futuro. L'economia italiana nel suo complesso, come la giudica? Un'economia forse un po' stanca, un po' appagata, avrebbe bisogno di qualche molla per crescere un po' di più? Ma devo dire che comunque l'economia italiana rimane un'economia importante a livello mondiale, a livello internazionale, quindi non è negativo il giudizio sull'economia italiana. È chiaro che ci sono delle economie emergenti che vanno a delle velocità completamente diverse, differenti dalle nostre, non solo rispetto a quelle italiane ma rispetto a quelle europee. quindi sicuramente una spinta ulteriore ci farebbe bene, però non so se basterebbe per mantenere dei tassi di crescita del PIL vicino al 10%. Vabbè, certo. Come il BRIC. Questo sembra ormai impossibile, forse esatto. Bisognerebbe accontentarsi del 2, già esatto. Il 2 sarebbe una cosa positiva. Ecco, l'economia italiana è fondata sulle piccole e medie imprese, molto spesso di carattere familiari. Che cosa impedisce alle imprese di crescere, di diventare delle grandi imprese? Questo è uno dei problemi che l'Italia ha sotto il profilo economico. Ma devo dire che c'è comunque un'evoluzione delle piccole e medie imprese. Probabilmente il fattore principale è che l'imprenditore vuole tenere l'azienda per sé, perché chi vuole poi fare un salto di qualità e ingrandire sempre di più la propria struttura ha bisogno dell'innesto di capitali importanti, e questi capitali che vanno reperiti sul mercato probabilmente vanno a condizionare anche un po' l'assetto societario delle aziende. Ecco, forse è questo lo scoglio principale, ma quello che le posso dire è che comunque stiamo vedendo aziende italiane sempre più flessibili, sempre più dinamiche, con un'apertura ai mercati internazionali. Quindi il mio punto di vista sull'azienda italiana è estremamente positivo per chi vuole innovare. E lo spazio ci può essere anche da un profilo finanziario. In fondo la borsa italiana è più piccola di altre borse, soprattutto rispetto a borse come quelle di Londra o di Francoforte, per non parlare di New York. Certo. Resta comunque un sistema finanziario che potrebbe dare maggiore supporto alle imprese, quello italiano. Sì, effettivamente è un settore finanziario differente, un settore finanziario meno forte rispetto ai mercati che ha citato. Penso che comunque sia, in questo momento, sia sufficiente per tutelare la crescita delle imprese. È chiaro che aspettiamo sempre di avere dei sistemi finanziari più forti, però non penso che sia questo il principale problema dell'evoluzione delle piccole e medie imprese. Ecco, possiamo forse allora concludere con questa prospettiva, così come abbiamo iniziato. La vita ha tante opportunità, tante possibilità, bisogna guardarla con ottimismo anche nei momenti difficili. Questa è un po' la sua filosofia, Tommaso Mainini. Penso di sì, penso che sia la filosofia che soprattutto in questo periodo di difficoltà è necessario avere. Quindi una filosofia di ottimismo, cerchiamo di affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità. Esatto, che è uno dei valori della nostra azienda. Grazie mille, grazie a Tommaso Mainini, direttore generale di Michael Page, che è stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia, Danita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.